sulle strade della gente, dove le pietre sono mine, che devastano la carne nella terra che si arrende, lasciando a pezzi la speranza, il sorriso di un bambino perso nella tormenta, di un pianto viscerale e un dramma universale che violenta l'innocenza. E i salici piangenti son testimoni dei troppi anni di violenza. Il mare non è blu, mescla de sangre con la terra, ma come un rio dalla montagna stanno arrivando con la speranza. Le madri strette ai propri figli, sudando amore, sudando lacrime di dignità. Come un rio dalla montagna stanno arrivando con la speranza, bambini e uomini feriti, cercando asilo, cercando un posto dove sognare e amare. Non meritiamo questo oblio, siamo l'urlo della gente, dice un uomo tra i lamenti, occhi e bende sanguinanti, ma con ancora la speranza tra le mani. Mezcla de sangre con la tierra, pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza. Las madres que ven por sus hijos y que sus libros para la escuela son su soñar. Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza, hombres y niños malheridos, buscando asilo, buscando un sitio para soñar y amar. Son caminos de caminos, caminos de caminos, caminos de caminos, son caminos de caminos, son caminos de caminos.